1, 2, 3. Adesso tra poco ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. L'Italia si desta. Ci sono, cari ascoltatori, sono qui, sono tornato. Ieri in tanti mi avete scritto allarmati, molti ovviamente mi avete scritto chi di deboscio colpisce, di deboscio ferisce, e mi avete scritto debosciato, razza di debosciati voi, eccomi qua. Siamo in onda fino alle 9.30 anche oggi, fino a domani, poi tornerà Giovanni Minoli dalle 9, eh? E che dire, oggi parleremo di ferie dei magistrati, questa polemica, avremo il segretario dell'Associazione Nazionale Magistrati con noi dalle 8.15, Maurizio Carbone, avremo Nicola Gratteri che presiede oggi una commissione anche per elaborare proposte in tema di lotta alla criminalità organizzata, è un magistrato. Parleremo anche di società pubbliche con la storia di un imprenditore che si è messo a capo della società pubblica, ha fatto di tutto per licenziare gli assenteisti e ci racconterà come e con quali traversie. Bene, di questo parleremo dalle 8.15, state con noi perché si comincia alla lettura dei quotidiani. In questo giovedì 11 settembre intanto i titoli di prima pagina, il Sole 24 Ore apre con Ferrari targata Marchionne, questo è il titolo di prima pagina dedicato al cambio che c'è stato al vertice della Rossa di Maranello, mentre per il Corriere della Sera c'è una notizia che viene messa a tutta pagina, in prima pagina, ed è questa: Eni Descalzi sotto inchiesta. È sotto inchiesta l'amministratore delegato del gruppo, coinvolti anche l'ex Scaroni, coinvolto anche Bisignani. I PM parlano di mega tangente in Nigeria. Per Repubblica invece sanità via ai tagli, ecco il piano italiano per la crescita europea. Il titolo del Fatto Quotidiano invece è Renzi mette le mani sul CSM e Napolitano sulla Consulta. Per Il Messaggero, sanità tagli per 3 miliardi, mentre La Stampa lancia un'intervista a Barroso, il presidente uscente della Commissione europea, che boccia l'Italia. Un paese in ritardo, ma l'Unione europea aiuterà Renzi. Il Giornale invece, la strategia del Cavaliere, centrodestra, ultima chiamata, mentre Libero, i rimborsi pazzi del Partito Democratico. È soprattutto la questione dell'Emilia-Romagna che sta facendo molto discutere, che ha anche il titolo di prima pagina del Manifesto, che gioca sull'Emilia rossa, il titolo è L'Emilia rotta. Come detto, allora, però, molti giornali dedicano le prime pagine al cambio al vertice della Ferrari. Parte l'era Marchionne, così titola la prima pagina di Finanze e Mercati del Sole 24 Ore. C'è anche molta discussione, molte polemiche. La rete ovviamente è impazzita, i social network, per la liquidazione di 27 milioni di euro data a Montezemolo, che prima che venisse svelata la cifra nel pomeriggio in conferenza stampa ha detto: qualunque cifra verrà data dalla Fiat, sappiate che sarà comunque poca. E vabbè, le polemiche per i 27 milioni, ma soprattutto le analisi, le strategie economico-finanziarie, cosa cambia per la Ferrari, tutto questo lo leggete sul Sole 24 Ore. Leggete per esempio l'interessante anche analisi di Andrea Malan su quella che è la svolta al Lingotto per quel che riguarda la Fiat. Racconta Malan in prima pagina del Sole: riduzione del debito, realizzazione del piano industriale, ricerca di un partner. Questi sono i tre dossier più rilevanti che il consiglio di amministrazione e il management di Fiat Chrysler Automobiles dovranno affrontare fin dalla riunione del mese prossimo a Londra, dopo la formalizzazione della nascita della nuova holding e il debutto a Wall Street. I primi due nodi sono strettamente legati, dovranno essere affrontati comunque prima della individuazione di un compratore o di un socio forte. Il tema della ricapitalizzazione è stato più volte affrontato dallo stesso Marchionne, secondo il quale un aumento di capitale potrebbe servire ora, ma non essere più necessario di qui a due anni, quando il gruppo produrrà cassa, secondo i piani, in misura significativa. Il problema è che per generare cassa, soprattutto con la parte Fiat, bisognerà disporre di nuovi modelli e per averli dovrà prima o poi investire. Ecco quindi che il tema del piano industriale e quello dei fondi si intrecciano. Fiat è ora parte di un gruppo globale con Chrysler, ma non può ancora utilizzare interamente la liquidità che Chrysler produce. E in ogni caso anche i marchi americani, primo fra tutti la Jeep, hanno piani ambiziosi che dovranno essere finanziati. Non solo, tra un anno esatto Chrysler, così come General Motors e Ford, dovranno rinnovare il contratto di lavoro con il sindacato americano e sarà il primo rinnovo del dopo crisi, il primo in cui potrà nuovamente usare l'arma dello sciopero, questi sindacati. Insomma, queste sono le sfide, i nuovi modelli e la partnership sono soprattutto le priorità di Fiat Chrysler, con Marchionne che però ora utilizzerà il brand Ferrari, conosciuto in tutto il mondo, e ha ribadito rimarrà un'azienda italiana, un marchio italiano, a smentire la americanizzazione che in qualche modo Montezemolo aveva lasciato trapelare come rischio, come quello che Montezemolo uscendo dice mi auguro che non accada assolutamente, e Marchionne ha tenuto a smentire prima cosa proprio questa. Comunque ci sono tantissimi articoli anche su Montezemolo, la figura di Montezemolo per esempio, vi segnalo sempre Paolo Bricco in prima pagina del Sole 24 Ore, racconta tutta l'ascesa, tutta la parabola di Luca Correo di Montezemolo, e trovate poi l'articolo a pagina 35, ma ogni giornale ovviamente ha tanti articoli, qui per brevità non ne posso leggere solo che alcuni. Voglio però saltare subito di palo in frasca, come si suol dire, per raccontare ciò che mi ha colpito sul Corriere della Sera con questo articolo che riguarda Padova. L'articolo trovate a pagina 23. Padova sembra diventare la capitale dei divieti in Italia da quando c'è il leghista Massimo Bitonci eletto sindaco. Stop a feste goliardiche e birre al parco. Padova diventa la città dei divieti. Sono i nuovi comportamenti proibiti dall'ordinanza emanata dal sindaco Bitonci, come racconta Elvira Serra sul Corriere, che non si possano concordare prestazioni a pagamento con persone che esercitano meretricio ci sta, che non ci si possa mostrare in pubblico con abiti che offendano il comune senso del pudore è già più discutibile da applicare, che però non si possano affiggere papiri di laurea, festeggiare il neodottore con docce di uova, farina e liquidi, ha dell'incredibile, soprattutto se l'interdizione si applica alla culla della goliardia che vanta 60.000 studenti universitari. Eppure Bitonci si difende così, ma lo sa quanti laureati ci sono ogni giorno in città? 30, 40... come dire, sarebbe uno schifo con tutte queste feste, se lanciano di tutto. E invece noi vogliamo diventare la capitale culturale economica del Veneto e possiamo farlo solo se saremo capaci di offrire opportunità, e le opportunità si creeranno quando ci saranno regole, regole per tutti rispettate da tutti. Eppure l'elenco dei divieti comprende cose incredibili, per esempio il palo che sorregge i cartelli stradali, gli alberelli dai fusti sottili e le inferriate non nascono per agganciare la catena della bici o del motorino. Multa! Per chi se ne dimentica si somma anche la rimozione! Cari padovani, non legate la bicicletta ai cartelli stradali! Non si potrà scrivere Laura ti amo sul tronco di una quercia, ed è un bene, povera quercia questo, ma non si potranno nemmeno stendere i panni alle finestre del centro. Massaie di Padova, attente. In questo caso non lo so se c'è una multa, immagino di sì. Sedersi sull'asfalto sarà punito con 100 euro di multa. Attenzione a Padova, lo stesso cogliere un fiore da una aiuola o trattenersi nei giardini pubblici recintati oltre l'orario di chiusura porta anche questo a 100 euro. Padova, signore e signori. Vabbè, invece l'articolo che più fa incazzare della giornata, l'articolo Mani sul volante. E quindi il premio Mani sul volante di quest'oggi in rassegna stampa va a Sergio Rizzo sul Corriere della Sera, che ci racconta la storia di Sogesid, la società pubblica da chiudere nel 2012, viva e vegeta. E ora la guida un uomo di Galletti, il ministro dell'ambiente, questo è il titolo. È la pietosa sepoltura che era già pronta, scrive Rizzo, quella promessa dall'allora ministro dell'ambiente Corrado Clini, data 18 luglio 2012, è nostra intenzione chiudere l'attività di Sogesid, che progetta nel settore dei rifiuti, acque bonifiche, compiti a cui una società per azioni come questa, controllata al 100% del Tesoro, creata 20 anni fa con l'obiettivo di dare attuazione alla legge Galli sui bacini idrici, era arrivata per consunzione della missione originaria, di fatto mai iniziata. Ebbene, che succede? È viva e vegeta, e a suo posto, a capo, è stato messo come primo come presidente e amministratore delegato retribuito con 326.000 euro, Marco Staderini della Sogesid, eccolo qui. Tra l'altro racconta, una vecchia conoscente del mondo delle imprese pubbliche, degli enti di Stato, delle aziende locali, da una dozzina d'anni a questa parte, ovunque toccasse un posto a Casini, racconta Sergio Rizzo, era il suo. La presidenza dell'INPDAP, l'ente di previdenza dei dipendenti statali, a Staderini. La presidenza di Infratel, società del gruppo pubblico Sviluppo Italia incaricata di occuparsi della banda larga, a Staderini. Il consiglio della Sogei, delicatissima azienda controllata dal Ministero delle Finanze, a Staderini. Al punto da costringerlo a ritrovarsi addirittura contemporaneamente nel consiglio di amministrazione della RAI e delle Ferrovie. Una coesistenza tentata ma risultata impossibile. Questo succedeva nel 2005. E così la storia della Sogesid vince il premio Mani sul volante di oggi. Mentre vi lascio, cosa succede prima della pubblicità nella ricca e tumultuosa Sicilia? Succede, come racconta Libero con Nino Sunseri a pagina 16, che l'assessore all'ambiente della regione è stata pizzicata a fare un abuso edilizio, racconta Libero. Una vasca da bagno, una piscina, chiamiamola come volete, una piscina che è stata rimossa, anche se i veleni sono rimasti. Perché può accadere solo in Sicilia, racconta Libero, che l'assessore all'ambiente al territorio, ripeto, all'ambiente al territorio, venga sanzionata per un abuso edilizio. Piccolo, per carità, ammette Libero, piccolo, quanto può esserlo un vascone di una decina di metri che troneggia nel giardino della villa dell'assessore a Siracusa. Maria Rita Sgarlata è stata pizzicata per questo abuso, racconta Libero, assessore all'ambiente e al territorio. La pubblicità. Ma prima c'è Alessandro Milan, una gloria radiofonica. Ci fermiamo. Alessandro Milan, il sindaco dell'informazione. Eccoci qua, cari cittadini, sono il vostro sindaco, dice questo ascoltatore. Allora, da cosa vogliamo ripartire? Vogliamo ripartire dalla notizia politica che certamente sta facendo tribolare di più il governo e soprattutto il premier Matteo Renzi, cioè cosa è successo in Emilia-Romagna. In Emilia-Romagna, dove si deve andare a votare dopo che si è dimesso Vasco Errani, che è stato condannato, che succede? Che i candidati alle primarie del PD sono finiti indagati per peculato, almeno un paio. Matteo Richetti, che si è defilato dalla corsa, e invece Stefano Bonaccini, che è andato dai magistrati e dice no, io vado avanti. La vicenda riguarda le solite questioni, spese loro, soldi nostri. Questa è l'accusa quando erano consiglieri regionali. Vale a dire 5.000 euro circa contestati a Matteo Richetti e 4.000 e rotti euro a Stefano Bonaccini. Sono proprio queste cifre considerate non alte che spingono Bonaccini ad andare dai magistrati e dire io vado avanti. Questo è il titolo di pagina 8 del Corriere della Sera. Emilia, Bonaccini non si ritira, contestate spese per 4.000 euro. C'è invece un'intervista a Matteo Richetti, che viene intervistato da Olivio Romanini Sempre a pagina 8 il titolo è questo: l'indagine c'entra solo in parte. Io sollecitato da Roma ma non dal Premier. E c'è un po' un giallo di fronte a queste dichiarazioni di Richetti, che dice: Matteo Renzi non mi ha mai chiesto di ritirarmi dalle primarie, ma certo da Roma e in Emilia ho avuto sollecitazioni a fare un po' di ordine nel quadro che si era creato. Tanto che a questa perifrasi più avanti il Corriere della Sera chiede: scusi Richetti, Renzi le ha mai chiesto esplicitamente di non correre per la successione a Vasco Errani? Renzi non mi ha mai chiesto di fare o non fare qualcosa. Però è vero che lei ha ricevuto forti pressioni politiche da Roma perché si ritirasse? Io non ho mai parlato di pressioni politiche, risponde Richetti. Ho solo raccontato di aver avuto da più parti sollecitazioni per fare un po' di ordine nel quadro delle primarie. Scusi, non è la stessa cosa detta con parole diverse? Ma questo ragionamento non me l'hanno fatto solo da Roma, molti amministratori mi hanno detto le stesse cose anche qui in Emilia. Insomma, dice non dice Matteo Richetti, non dice bene il motivo e chi avrebbe fatto delle pressioni, non fa nomi e cognomi di chi avrebbe fatto pressioni perché si ritirasse. Certo, Libero a pagina 2 racconta quella che è la sindrome emiliana di Renzi, e soprattutto racconta qual è quest'inchiesta e quella in cui in maniera più ampia si era letto di cene e pipì rimborsate, i rimborsi pazzi del PD. Roberta Catania inizia in prima pagina di Libero e poi continua a pagina 2. Nei fascicoli dei due indagati eccellenti non c'è niente di pruriginoso, premette Libero, cioè ci sono alcune cene, un paio di weekend a Riva del Garda per esempio, o di trasferte, non so se weekend, trasferte a Riva del Garda per Richetti. Però questa è l'inchiesta nella quale erano emersi rimborsi per asciugacapelli, divano letto, bottiglie di vino da 100 euro, salumi, frutta, verdura, penne, e poi i titoli se li era presi però lo scabroso caso dei rimborsi per il cesso pubblico. Ricordate, due scontrini da 50 centesimi alla stazione di Parma allegati ai biglietti del treno da farsi rimborsare, e fu colto anche in fallo il consigliere del PD Thomas Casadei, che disse: sono molto sorpreso, di solito gli scontrini del bagno li butto via. Vabbè, è questa l'inchiesta dentro la quale c'è questa vicenda. Lo stallo del PD è che Renzi rinvia per ora le nomine. Come racconta Monica Guerzone a pagina 9 del Corriere della Sera, slitta la direzione sui nuovi equilibri in segreteria. Chi si candiderà a questo punto? Torna in auge la ipotesi del Rio, che lascerebbe la segreteria, ora è sottosegretaria alla presidenza del Consiglio, e quindi lascerebbe il governo per dedicarsi all'Emilia Romagna, ma pare ora che Del Rio non voglia. Insomma, martedì prossimo, forse martedì prossimo, si deciderà. C'è da dire che però Renzi, questo almeno in un retroscena di Repubblica, firma Goffredo De Marchis a pagina 6, Renzi dice ai suoi: voglio restare fuori da questa vicenda, ma su queste cose io sono garantista e sulla base di quegli elementi non mi sarei ritirato. Dunque è un Matteo Renzi che in privato con i suoi collaboratori pare sposare la linea Bonaccini, che non si vuole ritirare. Anch'io sulla base di quegli elementi non mi sarei ritirato, questo avrebbe detto Renzi ai suoi. Va bene, a lato delle questioni politiche c'è poi la questione dei tagli. Allora, è slittato l'incontro con i ministri, ma Renzi vuole i tagli. D'altronde ha promesso 20 miliardi di spending review e quindi deve trovare i soldi, e gli incontri slittano con i ministri. Dice però ai ministri: scrivetemi le vostre proposte, fermo restando il fatto che se i ministeri non trovano dove tagliare, a quel punto Palazzo Chigi interverrà d'imperio. Questo almeno è la linea politica di Renzi. Libero critica proprio questo, dicendo: l'annuncite non passa, slitta il vertice sui tagli, questa pagina 6. Ma sui tagli si sa qualcosa di più leggendo per esempio il Messaggero. In prima pagina mette questo titolo con una cifra molto imponente: il ministro della sanità Lorenzin ha detto non si tocchi la sanità. Si legge invece sul Messaggero: tagli, Renzi vuole 3 miliardi dalla sanità. Il corpo a corpo è rinviato alla prossima settimana, scrivono Andrea Bassi e Alberto Gentili. Matteo Renzi ha dato altri 3 giorni di tempo ai ministri per mettere nero su bianco le proposte di tagli per i singoli dicasteri, ma da quel che si suppone, Renzi vuole tagliare 3% anche alla sanità, soprattutto dal fondo della sanità su cui si regge il patto per la salute, una sforbiciata che potrebbe rendere 3 miliardi. E su questo certo c'è da discutere e ci sarà da discutere. Anche qui circola una battuta che Repubblica con Roberto Petrini mette a pagina 2, dedicata proprio al tema della sanità. Pare che Renzi abbia detto, di fronte alle resistenze di Beatrice Lorenzin, qui non si taglia, e che mica c'è scritto su Croce Rossa sugli sprechi della sanità. Così avrebbe detto Matteo Renzi, come per dire, anche nella sanità si può intervenire. Voglio salutare Mauro Meazza. Buongiorno, caro Mauro. Buongiorno, buongiorno. Come stai? Sono molto lieto. Bene, bene, grazie. Tu stai bene? Benissimo. Perché c'è stato, benissimo. Come sai, l'agitazione tra gli ascoltatori. Sì. Che agitatori e sobillatori in piazza, certo. Sì. No, sentivo che parlavi di tagli, ma siccome prima ancora stavi parlando di inchieste e così via, temevo, come dire, in un lancio poco benevolo da parte tua per questa mia... Che ti volessi tagliare? No, vabbè, ma comunque se mi tagli però ragioniamo sulla liquidazione, sai, oggi è il giorno della liquidazione, io mi potrei accontentare anche della metà, ecco, delle cifre che ho... No, è giusto, 27 anche per te, 27 caffè di liquidazione a Mauro Meazza. 27 pagati. Caffè di liquidazione, va bene. No, volevo dirti però, stai attento con questi lanci, perché oggi la Cassazione, riportiamo notizia, che la Cassazione ha detto che lo stalking non è mica solo quello che avviene all'interno della coppia, quindi il partner, l'ex marito e così via, ma può anche essere tra persone che non sono legate tra loro da un vincolo affettivo. Quindi anche tu che continui a mettermi insieme a indagati, arrestati, eccetera, eccetera, per ora, come vedi, è il nuovo corso, non l'ho ancora fatto. Leggiti i particolari comunque in via precauzionale su norme e tributi di oggi. Ovvio. Dove scoprirai anche che oggi è un giorno decisivo, caro Alessandro, perché oggi è il giorno della TASI, perché è il giorno entro il quale vanno inviate le delibere, le decisioni dei comuni per l'aliquota, appunto, per quanto dobbiamo pagare di questa TASI. Allora ci c'è un pronostico che viene fatto da Gianni Trovati oggi sul Sole 24 Ore. Probabilmente ci saranno un migliaio di comuni che non avranno delibere, ma lo scopriremo non solo vivendo, come diceva il poeta, ma lo scopriremo il 18, perché bisognerà andare a guardare poi sul sito del Ministero dell'Economia per vedere quanti e quali comuni hanno deciso, e poi ognuno dovrà, come dire, compilare il suo personale oroscopo della TASI pescando qua e là dalla delibera. Poi ti raccomando, guarda che la certificazione unica perde la D, sai, il famoso CUD, sì. Ecco, diventerà certificazione unica, cioè solo CU. Adesso io ho un po' di remore a dirlo in sigla, effettivamente, perché speravo lo facessi tu. Non lo fa nessuno dei due, diamolo per detto entrambi, perché non mi sembra elegante, trattandosi anche di questioni di tasse. Vabbè, però compilate il Q. Basta, l'abbiamo detto, passiamo oltre, però volte. In realtà la cosa è molto importante, perché da lì discende tutta l'operazione famosa della dichiarazione precompilata, hai presente? Sì. Ecco, allora, quello lì è uno snodo fondamentale, ma se vuoi saperne di più, leggi Marco Mobili oggi sul Sole 24 Ore, indovina in che sezione. Norme e tributi, certo Mauro, devo dire che nel salutarti mi veniva, vabbè, ma tu sei milanese, sai che, però parlando di tasse e vista questa nuova sigla... Anch'io ho fatto questa associazione, però guarda, no, parliamo anche di tagli possibili, tagli IRAP, quindi, non ne parliamo in norme e tributi, quindi, ne parlano Patta e Pogliotti, vero? Usciamone con un'altra sigla, IRAP, IRAP. Mi sembra meglio sembra di Ciapa, cioè nel senso meglio di, vai di quella lì, vabbè, insomma, niente, traffico. Don Alejandro Milan è il soro dell'informazione. Allora, è stata presentata la nuova Commissione Europea, il nuovo esecutivo che è guidato da Jean-Claude Juncker, e tutti fanno notare sui giornali come abbia messo dei falchi, soprattutto Katainen, ma anche Dombrovskis, nomi con i quali dovrete nei prossimi anni ai quali dovete fare affidamento nei prossimi anni. Sono dei falchi del rigore sul controllo dei conti, soprattutto dopo aver messo Moscovici francese all'economia. Ma soprattutto per quel che riguarda la Commissione Europea, vi voglio segnalare l'intervista che il presidente uscente José Manuel Barroso rilascia alla stampa. Marco Zatterin parla ovviamente dell'Unione Europea che lascia, della Commissione che lascia, ma soprattutto parla dell'Italia. E non sono parole molto positive da parte di Barroso nei confronti dell'Italia, perché dice: i dati sulla competitività sono evidenti. Mi chiedo sempre come possa un paese che ha creatività, capacità di lavoro e gente così straordinaria conseguire risultati così sotto il suo potenziale in molti settori. Guardi l'esecuzione dei fondi strutturali 2007-2013, l'Italia al 58%, quintultima. Se la vede solo con chi è appena entrato nell'Unione, come la Croazia, è il solo paese fondatore a trovarsi così indietro. Com'è possibile? E Marco Zatterin chiede, lo dica lei, Barroso. L'Italia ha bisogno di un nuovo entusiasmo, una nuova energia. Come l'Europa, sia chiaro, in buona misura credo lo abbia trovato, con la maggioranza che c'è in Parlamento il governo deve attuare le riforme, dalla burocrazia alla giustizia, dall'istruzione al sistema fiscale. Sono certo che questo è ciò che chiedono anche i cittadini ed è la condizione perché l'Italia diventi competitiva di nuovo, così da alimentare crescita e occupazione. Da noi però non investe nessuno, chiede la stampa. Non è certo per mancanza di liquidità, c'erano i fondi europei usati troppo poco, è colpa della struttura pubblica e delle amministrazioni che si accavallano, delle complicazioni, della corruzione, non rendono l'Italia attraente quanto era prima, sebbene sul mercato ci siano alcune delle aziende più competitive e innovative del mondo. È un'analisi abbastanza impietosa di Barroso, che dice: forza italiani, com'è possibile che una gente così, un popolo così straordinario, con tutta la creatività, la voglia di lavorare, sia poi con i parametri economici non all'altezza? Datevi una risposta, Barroso qualcosa dice. Mentre per quel che riguarda, a proposito di corruzione, visto che ha citato lui anche questa parola, oggi il Corriere della Sera racconta con Luigi Ferrarella in prima pagina una vicenda che riguarda l'ENI, e in prima persona l'amministratore delegato De Scalzi, che risulta indagato, come racconta il Corriere della Sera in prima pagina, dalla Procura di Milano. La vicenda è per una presunta maxi tangente in Nigeria. È il nuovo amministratore che è indagato, tra l'altro, insieme al vecchio Scaroni e anche a Bisignani. Si riferisce tutto a una concessione petrolifera da $1 miliardo. La vicenda riguarda appunto la Nigeria. Trovate tutti i dettagli sul Corriere della Sera. E lo trovate, tra l'altro, in prima pagina come titolo principale. Mentre per quel che riguarda la cronaca, c'è una svolta sulla vicenda dell'uccisione del tifoso del Napoli, Ciro Esposito. Ricordate la finale di Coppa Italia Napoli-Fiorentina, con l'uccisione di Ciro Esposito e i colpi sparati da De Santis. Ebbene, c'è una perizia ora del RIS di Roma che ricostruisce in 600 pagine la dinamica della sparatoria costata la vita al tifoso del Napoli, e come raccontano tutti i giornali, questo per esempio è il titolo del Messaggero: De Santis sparò quando già era a terra ed era stato ferito. Cioè l'ipotesi è questa: in realtà De Santis, che prima con un fumogeno aveva aggredito un pullman di tifosi del Napoli, è stato inseguito da alcuni tifosi del Napoli. Secondo questa ricostruzione, scrive il Corriere, sarebbe stato inseguito proprio tra gli altri anche da Ciro Esposito, aggredito, forse anche colpito a coltellate, e a quel punto avrebbe reagito. Ecco che allora racconta il Messaggero, secondo questa ricostruzione potrebbe puntare addirittura alla legittima difesa e dunque alla soluzione. Questa è la perizia nei confronti della quale la madre di Ciro Esposito reagisce in un'intervista a Repubblica: sono solo falsità, il pestaggio è arrivato dopo, così dice la madre. De Santis ha sparato prima di essere aggredito, ne sono sicura, così la madre di Ciro Esposito. Ecco, sicurezza però basata non si sa su che cosa. È tutta una montatura, non possono provare nulla. De Santis non è stato picchiato prima di fare fuoco, non esiste. Sono sconvolta, ma capisco anche che gli avvocati di De Santis stiano facendo il loro lavoro e stiano cercando di salvare il loro cliente. In realtà è una perizia non di parte, è una perizia del RIS di Roma, quindi è una perizia degli investigatori. Questo per quel che riguarda questa vicenda. Ci sono anche molti articoli ovviamente sull'11 settembre, ma non c'è tempo per leggerli perché siamo in chiusura. Allora siamo al momento dell'articolo più inutile trovato sui giornali oggi. La carta costa va a Monica Guerzoni sul Corriere della Sera. Non se ne può più di questo tema, basta. La bellezza in politica, le donne, i belli in politica, Moretti, i belli in politica, c'è chi ha il suo seguito, il dibattito dopo che Rosi Bindi ha detto le ministre scelte perché belle, basta, non se ne può più. Ne abbiamo avute per anni queste discussioni con tutta la vicenda quando c'era Berlusconi, basta. Basta! Oh, il pubblico! Ascoltate me in questo istante, perché meno del 3% di voi altri legge libri, capito? Perché meno del 15% di voi legge giornali o riviste.